Allora, buongiorno, benvenuti, grazie di essere qui a seguire e magari stimolare questa breve tavola rotonda sul tema musei fra pubblico e privato. Abbiamo solo un'ora a disposizione, quindi io evito di fare una premessa sul tema, basteranno gli interventi dei nostri ospiti che, come vedete, sono due politici, Emanuele Bertoli, responsabile della cultura a livello cantonale, e Roberto Badaracco, responsabile della cultura a livello della città di Lugano, e due direttori sul fronte, sulla prima linea della politica culturale che riguarda i musei. La signora Agliati Ruggia, che è direttrice di un museo pubblico cantonale, la Pinacoteca Zust, e Paolo Campione, che è direttore del Museo delle Culture di Lugano, museo attualmente della città, ma che sta per essere trasformato in una fondazione. Quindi abbiamo attori che conoscono più o meno i temi, li hanno anche vissuti, della gestione pubblica, privata o semiprivata di queste istituzioni museali. Allora, io propongo ai nostri interlocutori tre domande. Cominciando da una molto generale, molto aperta, mentre nelle due successive avvicineremo di più il tema specifico delle differenze fra musei pubblici e musei privati o delle caratteristiche nel bene e nel male dei musei con statuto ibrido come fondazioni, enti autonomi e quant'altro. Allora, la prima domanda molto generale che pongo a tutti e quattro gli ospiti è questa. Vi è un noto aforisma di Deng Xiaoping che diceva: poco importa che il gatto sia nero o bianco purché prenda i topi. Potremmo parafrasare questo aforisma dicendo: poco importa che un museo sia pubblico o privato, purché le sue collezioni, le sue esposizioni e i suoi servizi siano di qualità e a prezzi accessibili. Ecco, con questa domanda, la quale chiedo appunto ai nostri interlocutori di reagire, si tratta di capire se è davvero così o se questa parafrasi è troppo semplicistica o addirittura un po' qualunquista. Cominciamo magari dal capo del Dipartimento Cantonale dell'Educazione, della Cultura e dello Sport, Emanuele Bertoli. Beh, grazie Martino, grazie di questo invito e buongiorno a tutti. Beh, diciamo che la cosa la si può, tra virgolette, liquidare in poche parole o la si può articolare in maniera un po' più andando a prendere qualche dettaglio. Perché tu hai messo in luce due elementi: uno, quello della qualità del museo, quindi dell'offerta a chi fruisce del museo, e l'altra questione, che è quella dei costi o dei prezzi. Ora, la questione della qualità, io credo che si può dire che dipende e non dipende necessariamente dal pubblico o dal privato, nel senso che possiamo avere musei pubblici di alta qualità o di qualità così, e musei privati di alta qualità e di qualità così. Quindi non necessariamente il sistema che sta dietro la gestione o l'impronta gestionaria dà la qualità. È chiaro che se un museo è pubblico c'è un ente pubblico di riferimento al quale si può chiedere conto della mancanza di qualità. E in questi termini il fatto che il museo sia pubblico è senz'altro un vantaggio. Se il museo è privato, si potrà in qualche modo privatamente chiedere conto al privato, ma il privato poi del suo museo, tra virgolette, fa quel che vuole. Se uno non vuole andare a quel museo, non ci va ed è finita lì. Quindi in questi termini il museo pubblico ha senz'altro un vantaggio, ma soprattutto ha, io credo, una certa sicurezza, non tanto di dare la qualità e non tanto di essere orientato positivamente, ma di poter appunto essere interpellato quale emanazione dell'ente pubblico, quindi della collettività, affinché quello che non funziona, quello che non va bene in termini di qualità o in termini di proposta, possa e debba essere migliorato. Per esempio anche in termini di risorse disponibili, perché è chiaro che la qualità non sempre, ma molto spesso è legata anche alle risorse disponibili. Quando non ci sono risorse poi diventa difficile fare un lavoro di qualità, magari a volte ci si riesce con grandi acrobazie, però non è sempre data. Dipende poi anche da che tipi di musei abbiamo di fronte, perché ci sono dei musei che si occupano di arti che non hanno, diciamo così, di per sé un mercato. Allora pensiamo, non so, a un museo di storia naturale, un museo della tecnologia, un museo dei trasporti, per esempio, che evidentemente non ha dietro un elemento di mercato come può essere quello di un museo d'arte o d'arte moderna. Voi sapete che oggi l'arte moderna è uno degli elementi che diventano anche bene di investimento, a volte anche uccidendo le possibilità per i musei di raccogliere le opere, perché o il museo è in grado di capire qual è l'autore o l'artista che diventerà famoso e quindi di acquistare le opere in un momento in cui non sono ancora quotate in maniera esagerata, oppure a un certo punto queste prendono il volo e per i musei pubblici diventa francamente difficile, se non impossibile, accedere a quelle opere, a meno che poi non gli vengano donate, regalate o non ne venga in possesso in altro modo. E nella misura in cui di mezzo c'è anche un investimento, ed è tipico oggi dell'arte moderna, il museo privato può avere anche un'altra, diciamo così, un altro profilo, che è un po' a metà tra il museo e la galleria, tra il luogo dove si mostrano le opere e il luogo dove invece in qualche modo dietro c'è un discorso anche commerciale. Quindi anche negli ibridi, per esempio, è importante che laddove gli ibridi funzionano con il pubblico e il pubblico metta la parte, metta, diciamo così, il suo peso sulla qualità per tutti, per l'utenza generale, lasciando quindi al privato magari uno spazio, perché ci può anche stare, ma senza altre logiche che non siano quelle di fornire una proposta di qualità al pubblico. La questione poi del prezzo, evidentemente quella anche gioca un ruolo. Normalmente un museo è fatto per essere visto, per cui se i prezzi sono troppo elevati poi c'è un problema alle entrate, però è chiaro che quando i prezzi sono, diciamo così, di standard elevato, alla fine c'è una fetta della popolazione che fatica o che non è sufficientemente attirata ad andare a vedere quello che il museo offre, quindi questo poi diventa anche negativo. Però capita nel privato anche, dove il museo magari è sostenuto da un mecenate o più mecenati, e l'intenzione del privato è comunque quello di aprirlo, non di lasciarlo vuoto anche dai visitatori. Però evidentemente lì ci sono delle differenze. Lo possiamo vedere comunque anche nelle città: ci sono delle città dove i musei sono a pagamento e insomma hanno anche un certo prezzo, altre città dove i musei pubblici e anche privati hanno invece una politica differente. E spesso poi la cultura politica della tariffa, che sia quella dei musei parigini, che sia quella dei musei londinesi, milanesi o dei musei di Lugano, si contamina, perché se i musei sono largamente accessibili è difficile in un contesto del genere proporre un museo difficilmente accessibile per questioni di prezzo. Quindi le due cose non sono per forza, come dire, l'organizzazione di un museo non è per forza indice o un nesso netto di causalità tra alta o bassa qualità, tra accessibilità alta o bassa, dipende molto dai contesti, con questo elemento che è molto per l'ente pubblico è importante sui musei d'arte, dove di mezzo c'è anche la questione commerciale, di avere in mano il timone del museo per evitare che altre logiche possano in qualche modo influenzare le scelte di proposta verso l'utenza. Bene, grazie Emanuele. Allora alterniamo magari un politico con un direttore. Quindi do la parola a Paolo Felice Campione, direttore del Museo delle Culture di Lugano. Grazie Martino, grazie a tutti voi. Ma cercherò di riassumere la risposta brevissimamente, così da dare poi spazio anche al dialogo. Io credo che un museo faccia due cose, le ha sempre fatte: conservare e valorizzare. Un museo pubblico conserva il patrimonio di una comunità e lo valorizza per una comunità. Un museo privato conserva il patrimonio di un privato e lo valorizza per i fini di un privato. Quindi sono due paradigmi completamente diversi. Una collettività decide di avere un museo, se ne assume i costi per quanto riguarda la conservazione. Storicamente se ne è anche assunti i costi per quanto riguarda la valorizzazione. A partire dagli anni 20 la valorizzazione è diventata molto costosa, dunque sono nate forme un po' diverse, un po' varie, quelle che qui ho sentito chiamare come ibridi, forse meglio chiamarle come organizzazioni miste. Il tema è questo: conservare un patrimonio di una comunità è un dovere per un museo nel momento in cui la comunità ha deciso di conferirgli quel patrimonio. Non è un dovere valorizzarlo. Un museo può semplicemente conservare e tenere ben in ordine le sue collezioni, fare un'esposizione permanente e ha svolto il suo compito storico. Nel momento in cui invece lo valorizza, allora occorrono degli investimenti, si creano costi molto grandi. Ecco allora che nasce il bisogno di una organizzazione mista, perché la valorizzazione ovviamente porta risultati su più fronti. Non è detto che un museo pubblico debba a tutti i costi valorizzare, però oggi senza una valorizzazione il museo non si sviluppa, non si fa conoscere, non sostiene la propria economia. Il modello dell'organizzazione mista dice sostanzialmente: per tutto quello che concerne la conservazione, il pubblico continua a erogare le risorse, perché si tratta sostanzialmente di conservare la memoria di una comunità. È un compito pubblico, è un tipico compito di un servizio pubblico. Per tutto quello che invece riguarda la valorizzazione, il museo moderno dovrebbe comportarsi come un'impresa, non più come un'istituzione. Detto in soldoni, se un museo per i compiti della sua conservazione costa il 60% del suo bilancio e il 40% è dato dalla valorizzazione, sarebbe corretto oggi immaginare che quel 40% venga reperito dal museo lavorando in stato di impresa. Ecco allora il complesso definito di tre modelli completamente diversi. Il modello pubblico: conservazione e valorizzazione al 100% nelle mani del pubblico. Il modello privato: conservazione e valorizzazione al 100% nelle mani del privato, che può decidere tutto, come nei musei americani, dove si possono anche vendere le collezioni per fare business. Modello da organizzazione mista, che è quello che probabilmente è più urgente per il nostro mondo contemporaneo, in cui i compiti della conservazione di una memoria civile, di una collettività, e di un patrimonio che la collettività ha deciso di conferire al museo restano nelle mani del pubblico, che quindi contribuisce in tal senso, mentre i compiti della valorizzazione, che sono sempre più legati ad eventi, spettacoli, attività, sponsorizzazioni, interazioni con un mondo che ha un'anima fortemente commerciale, questi sono demandati invece a una azione che trova le sue risorse nel fatto che il museo si comporta come impresa sul territorio. Ecco, questi sono i tre modelli. Credo che da un punto di vista della politica culturale uno debba scegliere da che parte andare. Ok, grazie. Allora vediamo da che parte sta e da che parte vuole andare l'altro politico presente, Roberto Badaracco, municipale responsabile della cultura della città di Lugano. Buongiorno a tutti anche da parte mia, bellissimo sto parco tra l'altro, bello fare la conferenza qua perché c'è una bella arietta. Bene, io vorrei partire forse un po' più a monte e parlare di cultura più in generale. Io penso che la risposta poi che si arriva a dare a questa domanda che è stata posta sia importante da partire dal valore culturale che dà una società in genere, quindi una collettività, una comunità, proprio alla cultura, alla valorizzazione della cultura in generale, che poi può essere la musica, l'arte, come nel caso dei musei, il teatro o tutte le espressioni culturali importanti. Ecco, io credo, immaginandoci un modello, che se ci fosse solo cultura privata sarebbe difficile, come diceva il direttor Campione, conservare e mantenere certe identità, certe collezioni, certe cose. Se andassimo invece all'opposto e avessimo solo una cultura pubblica, avremmo anche lì il rischio forse di essere unilaterali, di non lasciare più spazio ad espressioni anche private che tante volte completano il quadro generale. Insomma, ecco, da qui nasce secondo me la necessità di avere un giusto equilibrio, uno Stato liberale, una società liberale comunque come la nostra deve avere, prima di tutto, deve dare una grandissima importanza alla cultura in genere, perché la cultura serve tantissimo. Io so che le persone sono preoccupate al traffico, a come arrivano alla fine del mese, a tante cose, ma dovremmo capire tutti, e secondo me questa consapevolezza, e voi lo sapete bene, in certi partiti non c'è ancora, che la base trainante, quella proprio spirituale, interiore, è proprio la cultura. Cioè col fondamenti culturali, in fondo sono dei valori che abbiamo dentro di noi. Quindi se riusciamo a avvicinarci a una mostra, apprezzarla, apprezzare il bello, apprezzare le espressioni che dà, le emozioni e tutto questo, io credo che possiamo anche in una società dare qualcosa di più che è lo stretto, come posso dire, vivere, andare a lavorare, finire la giornata e poi termina tutto lì. Quindi il punto fondamentale per una società come la nostra è dare il giusto posto alla cultura, quindi il giusto spazio, le giuste risorse, quindi i soldi anche, che sono fondamentali, e capire che in un budget pubblico comunque una parte va investita comunque nella cultura per la crescita veramente spirituale di una comunità, di un comune, di un cantone e di una società. Ecco, se si parte da questa premessa, io credo che alla fine, diceva Martino, poco importa che un museo sia pubblico o privato, alla fine importa forse meno, però è importante che ci sia comunque una parte importante del pubblico che giochi il suo ruolo nella politica culturale e ci siano delle sinergie anche importanti e fondamentali con tutti i privati che hanno la libertà di esprimere. Sapete che in campo museale ci sono tantissimi collezionisti privati e spesso i musei pubblici senza i collezionisti privati non andrebbero molto lontano. Cioè già lì si vede la collaborazione, la sinergia tra società pubblica e società privata. Quindi questa è fondamentale. Io penso anche che la cultura deve essere accessibile a prezzi modici. Se vogliamo che sia una cultura cosiddetta popolare, e popolare non è una brutta parola, vuol dire che sia aperta a tutti, dove tutti possono veramente approfittare di quanto viene dato, bisogna far sì che non rimanga elitaria, tante volte forse lo è stato in passato, ma renderla proprio accessibile a tutti. Voi sapete, noi abbiamo l'AC, si parlava di politica comunale, noi a Lugano abbiamo questo importante centro culturale, stiamo facendo una politica veramente accessibile a tutti, con prezzi possibilmente, non è facile, qualcuno dirà che comunque i prezzi sono molto alti, però con prezzi accessibili, aperti a tutti. E questo è fondamentale, perché senza l'aiuto pubblico, che comunque investe nella cultura e dà dei soldi affinché comunque i prezzi vengano calmierati, cioè vengano abbassati, questo non sarebbe possibile. Il privato probabilmente farebbe pagare di più o comunque vuole trarne dei profitti. Ecco, il lato pubblico positivo è in questo, che con questo tipo di politica noi possiamo veramente essere aperti a tutti e fare un discorso popolare per tutti, perché alla fine non importa che quello che ha soldi segua la cultura, quello che ne ha meno invece segua altri piaceri, ma è il fatto che tutti proprio, dice, come dicevo all'inizio, possono avvicinarsi alla cultura per crescere interiormente, per avere piacere nelle cose culturali, per trovare un senso anche in quello che fa durante la sua giornata della vita. Capite, ci sono anche gli aspetti interiori, personali, dove uno la vita deve imparare a goderla, apprezzarla in tutte le sue espressioni, e la cultura è una parte forse fondamentale di tutto questo. Grazie. Grazie Roberto. Torniamo adesso a chi è in prima linea nella gestione dei musei, alla signora Mariangela Agliati Ruggia, direttrice della Pinacoteca Zust di Rancate. Ecco, grazie. Un po' il mio riassunto di quanto hanno già detto i relatori che mi hanno preceduto. Sì, ci sono delle sinergie tra pubblico e privato, però c'è una fondamentale differenza che forse già ha sottolineato bene il Campione, che è il museo pubblico ha una funzione appunto pubblica, perché riceve una raccolta che è dello Stato, quindi è della collettività, e quindi lo scopo di un museo pubblico è quello di far conoscere, di curare il bene prezioso appunto che ha ricevuto. Posso parlare appunto per il museo che dirigo, che è il museo del cantone più anziano, nel senso che è il primo museo cantonale, anche se poi non è così vecchio, perché è aperto dal 1967, è frutto appunto di una donazione allo Stato di Giovanni Zius, quindi di un mecenate che ha lasciato la sua collezione di quadri del 6, del 7, dell'Ottocento ticinese e lombardo al Canton Ticino. E quindi lo scopo del nostro museo è quello di rendere agibile, di fruire appunto di queste opere e di lavorare su queste opere. Infatti le nostre mostre temporanee vertono un po' sul tema o degli autori che sono presenti in Pinacoteca o soprattutto appunto dei secoli che vengono rappresentati in Pinacoteca. Quindi mostre anche tematiche, non solo di artisti che sono in museo. E quindi è questo che è un servizio pubblico, mentre il privato è un frutto appunto di una passione collezionistica, di magari anche di mecenati che vogliono far fruire la loro collezione, vogliono far vedere la loro collezione, le varie collezioni che ci sono, ad un più vasto pubblico. Però naturalmente hanno anche delle finalità diverse. Uno, sono diversi i servizi. Un museo pubblico c'ha davvero delle responsabilità, mentre il museo privato può in un certo senso disporre di come vuole. Noi dobbiamo sottoporci a degli orari, ai pagamenti appunto del personale, mentre un museo privato può essere aperto solo dal collezionista, può aprire quando vuole e poi soprattutto può chiudere quando gli pare. Ci sono delle collezioni private che possono rimanere aperte per anni, fruire appunto di tanti soldi, soprattutto se il mecenate ha grande disponibilità disponibilità finanziaria, oppure domani mattina possono anche chiudere. Quindi una funzione un po' diverso in questo nostro cantone, che è ricchissimo di musei. Stamattina leggevo appunto una statistica del 2014, dove leggo, adesso non so se in questi 3 anni sono cambiate le cose, ma nel 2014 si segnalano 42 musei privati, 36 pubblici e 7 misti. Quindi c'è questa, è un cantone, appunto, un noto slogan pubblicitario, il Ticino terra d'artisti, si potrebbe dire anche il Ticino terra di musei, perché in effetti ce ne sono moltissimi. Si possono anche convivere naturalmente i pubblici con i privati, anzi è giusto che si mettano a disposizione le risorse, è anche giusto che lo Stato aiuti i privati in iniziative appunto culturali valide, naturalmente con dei sovvenzionamenti, però c'è soprattutto questa differenza che del servizio pubblico che deve fare un museo pubblico, cioè i costi sono ci sono, ma la cultura, spesso si dice la cultura costa, è vero, costa, però sono diversi gli investimenti che si possono fare con la cultura, non solo, anche in fondo quello che non si pensa tanto, ma ci sono anche degli investimenti economici, cioè i musei fanno anche degli investimenti economici anche per il locale, per gli artigiani, per molte cose, si fruisce appunto economicamente dai musei pubblici, ma soprattutto ha un investimento appunto culturale che non ha soldi, non si specifica con i soldi. Noi per statuto la Pinacoteca Zust ha l'entrata gratuita per le scuole, perché appunto deve essere un servizio per i ragazzi, per poter venire, per poter essere educati all'arte, perché se non si conosce appunto la storia del passato, difficilmente si capirà la storia del presente e del futuro, e quindi benvengano i musei e benvenga appunto la cultura. Ecco, grazie anche alla signora Agliati. Possiamo passare alla seconda domanda, che è un po' la continuazione della prima, e permette quindi ai nostri ospiti di fare qualche ulteriore considerazione, se lo desiderano. Non tutti sono obbligati a intervenire su ognuna delle domande. Allora, come è già stato detto, vi sono dei musei puramente privati, per esempio da noi c'è la Fondazione Braglia a Lugano, museo privato ad accesso gratuito, oppure la Fondazione Ghisla a Locarno, museo privato a accesso a pagamento. E ci sono musei puramente pubblici, quello diretto dalla signora Agliati, la Pinacoteca Zust cantonale, il Museo Vela di Ligorneto, che è federale, il per ora Museo delle Culture di Lugano, che è un museo cittadino. Opportunità e vincoli, no, di queste forme di istituzioni sono ovviamente diversi. Quindi è interessante capire dal punto di vista dei politici, sono contenti quando, che ne so, la Fondazione Braglia apre una sua galleria, un suo museo a Lugano? Come si rapporta con questi musei privati? Questi chiedono qualcosa all'ente pubblico o sono completamente autosufficienti? Insomma, come vede il politico, il museo privato, e naturalmente quali problemi gli crea o quale gioie gli riserva il museo pubblico, che è direttamente sotto la sua direzione. Anche a livello cantonale, magari Manuele vuole dire qualcosa su sollecitazioni, opportunità e quant'altro di chi, dei moltissimi, sono stati ricordati dalla signora Agliati, dei moltissimi musei, sia pubblici che privati. E da parte dei direttori dei musei, per chi vuole di nuovo pronunciarsi sul tema, Ovviamente dirigere un museo pubblico, non abbiamo qui direttori di musei privati, dirigere un museo pubblico comporta sicuramente dei vantaggi e degli svantaggi, delle difficoltà e delle opportunità che potrebbero essere ricordate, così da trattare poi in conclusione, terza domanda, quali saranno, quali potrebbero essere o sono già le caratteristiche ibride o miste, no? Come si stanno evolvendo ora i musei privati verso altre forme giuridiche. Chi vuole cominciare su questo tema? Magari tu, Roberto, vuoi dire qualcosa su anche proprio l'esperienza che abbiamo in città di un dicastero che gestisce alcuni o un museo almeno, anzi più di uno, c'è anche il piccolo museo Schmidt di Bre, per modo di dire, dei musei puramente pubblici, e che sicuramente ha una qualche forma di interazione con i musei o gli espositori privati. Sì, ecco, diciamo che a livello culturale noi Lugano, per comporre questo mosaico che non compone solo le arti visive, quindi i musei, ma anche la musica, il teatro e quant'altro, abbiamo scelto una strada che è quella di avere delle istituzioni che sono comunque pubbliche, ma hanno una loro autonomia, come il caso delle fondazioni. Ecco. Quindi il modello un pochettino applicato in via generale è quello di costituire delle fondazioni che sono comunque sottoposte, controllate, ricevono un mandato di prestazione. Mandato di prestazione vuol dire dei soldi dall'ente pubblico, che lo decide tramite il Consiglio Comunale, di destinare per esempio 1,5 milioni, 2 milioni all'anno per questo tipo di attività. Noi poi abbiamo a Lugano una bella formula che è riuscita, secondo me, un grande successo a livello cantonale, perché ci sono piccoli e grandi musei, e dal, tra virgolette, piccolo museo di Lugano e il museo cantonale del cantone, siamo riusciti dopo tanti anni a creare un'entità unica che si chiama Museo d'Arte della Svizzera Italiana, soprannominato MASI, che tutti conoscete come sigla, perché penso che è diventata di utilizzo comune. Ecco, il MASI è sovvenzionato, tra virgolette, comunque il cantone e il comune danno circa 3,3 milioni ognuno per tutta l'attività del MASI. Il MASI ha poi, chiaramente, da fare un lavoro, come diceva prima il direttor Campione, sul territorio per acquisire ancora dei fondi privati. Quindi l'idea, il futuro, è un po' quello di dire: un museo interamente pubblico, anche se viene aiutato, sostenuto dall'ente pubblico, non è che non vada più bene, ma non è più sufficiente per garantire la continuità di un museo solo i soldi pubblici. Quindi cosa deve fare tramite l'ente della fondazione, che dà questa flessibilità, forse più autonomia a livello culturale, più efficacia anche nella ricerca dei partner finanziari, quella di avere questa struttura che permette di andare da uno sponsor, un cosiddetto sponsor privato, chiedere delle somme e riuscire così a far quadrare il bilancio, migliorando l'attività, facendo forse esposizioni che prima non si potevano fare, e poter andare in avanti nella sua attività di promozione dell'arte. E quello che un po' il MASI fa, sapete che è uno sponsor in questo caso, che è il Credito Svizzero, che dà una somma cospicua, poi ci sono altri sponsor privati, e quindi questa formula della fondazione sta diventando sempre più vincente, perché in uno Stato liberale comunque la cultura non deve avere degli influssi dalla politica, e ultimamente avete visto che la politica tende, ma è normale che succeda, a mettere il naso in cosa fa la cultura. Però fino a che è una questione di soldi e di tecnica va bene, ma quando diventa invece un influsso sull'attività culturale, secondo me questo non va bene, perché i direttori, gli specialisti devono avere la possibilità di sviluppare sì delle linee guida che vengono date dal politico, ma poi di avere la necessaria libertà per farlo senza influssi, senza critiche, senza veti che diventano veramente nefasti per la cultura. Ecco, io credo che quindi vedete già voi che ci sono delle istituzioni, si parlava di musei pubblici e privati, già adesso ci sono dei musei pubblici che comunque nel loro budget, nel loro bilancio, hanno una parte costituita dai fondi pubblici e un'altra parte invece che è costituita da fondi privati. E quindi già qua c'è una specie di sinergia di forma ibrida, di forma mista, che sussiste. Poi verso invece i musei, che a Lugano ce ne sono parecchi, piccoli musei come cito il Museo in Erba, anche che fa un lavoro molto grande verso i bambini, dal museo che è stato citato, la Fondazione Braglia, ma tanti altri, ecco, queste entità chiaramente spesso vengono a chiedere i soldi all'ente pubblico e noi, nella misura in cui possiamo, nel limite dei nostri budget, diamo anche un sostegno a o fondazioni o enti interamente privati per la loro attività. Proprio per quello che dicevo prima, perché è importante che comunque chi vuole fare qualche cosa a livello culturale, qualche cosa di valido, qualche cosa che vale la pena di sostenere, venga tutelato e quindi venga aiutato dal profilo finanziario. Ecco, quindi per terminare, perché lascio la parola agli altri, direi che i punti forti, i punti deboli, sia nei musei pubblici che privati, ci sono. Però se il privato, rispettivamente il pubblico, cercano di rimediare a queste lacune, ognuno con le proprie forze, si può creare una presenza di musei molto fitta, come diceva la signora qua in Ticino, e questo è un valore culturale importante, cioè dobbiamo essere contenti di avere così tanti musei, perché sarebbe veramente una tragedia averne pochi, invece ne abbiamo tanti. Questo per la cultura in genere, più musei abbiamo, secondo me, meglio è. Chiaramente non tutti possono, è un discorso finanziario molto difficile, sostenerli tutti, tante volte l'ente pubblico non può, ci sono però i privati che danno delle mani forti, degli sponsor, dei mecenati, che hanno delle visioni molto grandi e sono disposti a dare tanti soldi anche per la cultura. Per fortuna che questi ci sono e così si possono fare dei discorsi culturali molto belli ed importanti. E io credo che nel nostro cantone stiamo abbastanza bene, si può fare ancora molto di più, però a livello di musei stiamo abbastanza bene, dobbiamo ancora lavorare molto, si può ancora fare di più, come rafforzare gli enti e queste istituzioni sempre di più, perché l'unione fa la forza e quindi se riusciamo a metterli in rete, avere degli attori forti anche a livello museale, potremo avere un futuro museale molto migliore. Grazie anche stavolta Roberto. E ora darei la parola appunto alla signora Mariangela Agliati, che come direttrice di un museo pubblico, diciamo, porta sulle sue spalle le croci e le delizie della direzione di un museo pubblico, i vincoli e le opportunità che questa forma giuridica comporta. Ecco, sì, è vero, un museo pubblico, ma come quello privato ci sono croci e delizie. Cominciamo appunto dalle delizie, che sono il fatto che bene o male abbiamo un budget garantito che può magari diminuire o aumentare, però c'è lo Stato appunto che ci appoggia, mentre un museo privato deve contare soprattutto sulle sue forze, sul fatto appunto di avere una solida base economica e magari di trovare chi investe nei propri spazi. Devo dire che anche i musei pubblici devono trovare del... non hanno la completa appunto autonomia, nel senso che mi piacerebbe chiedere a Emanuele Bertoli dammi 1 milione e così posso fare tutte le mostre. Potrebbe averlo. Infatti, questo naturalmente bisogna stare appunto coi piedi per terra, però mi rendo conto che talvolta noi abbiamo anche degli aiuti. Anche noi come pubblico abbiamo delle sponsorizzazioni, abbiamo degli istituti bancari, delle fondazioni culturali, eccetera, che ci aiutano per incrementare il budget, che ci permettono quindi di fare una mostra magari un po' più costosa di quella che potremmo permetterci solo con il budget concessoci dal cantone. E questo è importante, come la stessa cosa vale un pochino comunque anche per il privato. E quindi il fatto di produrre cultura è importante in questo senso per i costi, comunque anche i benefici che si possono appunto ricavare. Dicevo prima che c'è anche un indotto economico, che forse tante volte quando si dice un museo costa, non si pensa però anche a quello che ai ricavi che si possono appunto fare, perché naturalmente noi siamo una piccola realtà, quindi siamo un piccolo museo che però dobbiamo per l'allestimento si devono chiamare i falegnami, si devono chiamare i pittori, si devono chiamare appunto i grafici, gli allestitori, si chiamano di solito appunto, essendo anche un museo pubblico, in questo forse sono anche le croci, dobbiamo anche cercare appunto di favorire anche le autonomie locali, gli artigiani locali, quindi il beneficio indubbiamente economico, che magari non sembra che ci sia per i musei, per la popolazione invece c'è sinceramente, adesso penso a una realtà appunto come Lugano, ma anche la piccola Rancate, con le mostre autunnali che hanno davvero molto successo, c'è un vasto pubblico, il sabato e la domenica i ritrovi pubblici di Rancate sono molto ben frequentati, quindi c'è anche questo tipo di indotto, oppure anche l'indotto appunto in un certo senso che non si vede, non si può ben quantificare, ma vi faccio un esempio per la mostra che abbiamo fatto l'anno scorso, che Legni Preziosi, che dedicava alla dedicava la mostra era dedicata agli oggetti, altari, crocifissi eccetera dal Rinascimento al Settecento, presente sul nostro territorio in tutto il Ticino, da Chiasso fino alle sperdute valli delle Cento Valli. C'è stato con un allestimento particolare curato da Mario Botta, c'è stata appunto una rivista, che è una rivista appunto a livello importante per sia anche nel nostro Ticino, ma soprattutto anche in Italia. Noi puntiamo molto sul pubblico della vicina Italia, Bella Europa, che ha dedicato un servizio di ben 5 pagine, partendo appunto dalla nostra mostra e dai nostri dalle nostre statue esposte a Rancate, per fare un giro culturale in tutto il Ticino, e quindi non solo per vedere gli edifici sacri dove erano conservate le opere che erano state portate temporaneamente a Rancate, ma anche per visitare i ristoranti, le cantine, i posti idilliaci del nostro paesaggio ticinese. Quindi si parlava per esempio del monastero appunto di Claro, di Feroglio, di Giornico, e quindi sono 5-6 pagine che a noi non sono costate niente, non è costato niente all'ente turistico cantonale, che di solito magari deve investire in pubblicità o in altre cose, quindi c'è questo tipo di indotto che talvolta non si vede, quindi direi quindi questi benefici ci sono senz'altro, sia nel pubblico sia nel privato, ed è giusto anche una collaborazione tra pubblico e privato, perché tante volte appunto ben vengono i collezionisti che ci prestano anche le opere per il pubblico, e quindi è giusto anche sostenere, quando l'intervento è di alta qualità, anche i privati. Grazie, quindi abbiamo capito che non ci sono solo le Maldive a un'ora da Milano, ma c'è anche il museo Pinacoteca Suista a meno di un'ora da Milano. Magari sentiamo brevemente, perché vedo che abbiamo già preso molto del tempo a nostra disposizione, anche l'altro direttore di un museo per intanto pubblico, che può aggiungere qualcosa a quanto detto dalla signora Agliati, e poi chiudiamo questa seconda domanda con Emanuele Bertoli, se vuole aggiungere il punto di vista del cantone, e poi abbiamo una terza e ultimo momento per riflettere proprio su problemi e possibilità delle forme miste, delle forme ibride di museo. Grazie, solo una piccola puntualizzazione. I vantaggi di un museo pubblico sono i vantaggi di un'istituzione. I vantaggi di un museo privato sono i vantaggi di un'impresa. È molto semplice. Un'istituzione ha tanti vantaggi, uno l'ha ricordato la collega, dei bilanci assicurati, ma ha anche dei vantaggi in termini di linee politiche. Dovrebbe essere la politica a sostenere lo sviluppo, l'indirizzo del museo. Un museo conserva la memoria della collettività, è giusto che la collettività dia un indirizzo politico all'utilizzo di questa memoria. Tutto quello che concerne l'istituzione ovviamente è un vantaggio. Ci sono anche gli svantaggi dell'istituzione. L'istituzione è spesso ingessata, l'istituzione ha spesso dei tempi lenti, l'istituzione ha spesso una conflittualità interna che è data dalla dialettica delle stesse parti che compongono le istituzioni. I musei spesso invece sono costretti a reagire velocemente sia per i loro compiti interni sia perché il mondo cambia molto più velocemente di quanto sono capaci di cambiare le istituzioni. E soprattutto in un momento come quello che ci troviamo a vivere di profonda trasformazione della nostra vita quotidiana da un mondo fatto di tante culture, stiamo arrivando a un mondo fatto di un'unica grande macrocultura a una velocità gigantesca, i musei sono costretti a correre. Ecco che allora un modello di impresa molto più facilmente adattabile alle trasformazioni della nostra vita quotidiana in questo momento ha tanti vantaggi. Naturalmente, lo vedremo nella prossima domanda che Martino così ci farà, ci sono anche delle soluzioni di mezzo, però è molto importante a mio avviso per il grande pubblico capire la differenza fra i due modelli, capire che per esempio in un momento in cui c'è una contrazione straordinaria del numero dei musei del mondo, si parla che nei prossimi 20 anni l'80% dei musei chiuderà o si trasformerà nella sua governance, è ovvio che un modello di impresa è molto più facile, molto più utile probabilmente per governare una trasformazione di questa grande portata, no? I momenti più tranquilli, i momenti di calma, i momenti di maggiore riflessione storica, probabilmente l'istituzione conferisce maggior solidità ai programmi e ai processi di sviluppo di un'istituzione millenaria. Ultima piccola nota. La Svizzera è il paese che ha più musei al mondo, pur essendo una nazione piccola, ha più musei degli Stati Uniti e della Germania. E poi un'altra piccola annotazione, i musei sono fra le istituzioni più resistenti del mondo. Se voi prendete le 500 più antiche istituzioni del mondo, ci trovate soltanto università e musei. Manuela? Beh, io magari metto assieme le due domande, quindi la seconda e la terza. Sì. Aspetta che ricordo soltanto la terza, era un po' questa. Vi sono già oggi, anche sempre di più, è un po' un trend, dei musei prima puramente pubblici, cui viene attribuito dagli esecutivi, ma soprattutto dai legislativi, comunale e cantonale, uno statuto misto, uno statuto ibrido. Per esempio, è già stato ricordato il Museo dell'Arte che ha permesso della città di Lugano del Cantone, che ha permesso di metterli assieme creando una fondazione, il MASI. Però c'è anche il Museo Villa dei Cedri di Bellinzona, per esempio, che è stato trasformato da museo cittadino in ente autonomo di diritto comunale chiamato Bellinzona Musei. È una trasformazione recente dello scorso anno. E il Museo delle Culture di Lugano, come già ricordato, appunto, è al vaglio del Consiglio Comunale della città, un messaggio del municipio che propone di assegnarne la gestione a una fondazione da creare e che potrebbe gestire anche altre entità analoghe oltre al, diciamo, questo cuore fondamentale che sarebbe il Museo delle Culture. In parte sono già stati detti quali sono i vantaggi e gli svantaggi di queste forme ibride, dal punto di vista del gestore delle politiche culturali pubbliche o da quello dei direttori responsabili della loro gestione. Allora Emanuele Bertoli risponde già anche a questa domanda, sulla quale avranno poi la possibilità di esprimersi anche gli altri ospiti. Beh, per quanto riguarda la seconda domanda, molto è stato già detto. Io metterei in luce due elementi, magari di dettaglio, ma importanti. Il museo pubblico, se io penso alla situazione del museo del Cantone, oggi di fatto sotto il Dex l'unico museo pubblico rimasto è la Pinacoteca Zürst, interamente pubblico, quindi nei conti del Dex, in qualche modo, dipendente totalmente dal mio dipartimento. C'è il Museo di Storia Naturale, che però dipende da un altro dipartimento, quello del territorio. C'è il Museo Archeologico, anche lì dal territorio. Così è stata la ripartizione già da tempo in atto nel nostro cantone. C'è poi il Parco Botanico delle Isole, che non è un museo, ma è comunque un istituto culturale come tanti altri. Ora, gli istituti culturali, io ci metto anche l'Archivio di Stato, ci metto anche le biblioteche cantonali, hanno dal profilo pubblico una serie di vantaggi, ma anche uno svantaggio, che è quello di rispondere a un budget annuale. E per un museo questo può essere un problema, nella misura in cui magari certi anni si prevedono certi tipi di esposizioni, poi magari si vorrebbe ogni 2 o 3 anni fare una grande esposizione, però il nostro sistema non prevede di accantonare dei soldi, o se lo si fa, il risultato è che poi qualcuno, prima che questi soldi vengano usati, a qualcuno viene in mente di andare a prenderli per tappare qualche altro buco, per cui ogni tanto poi questi soldi messi da parte poi scompaiono. Il Cantone ha creato anche una struttura che si chiama Unità Amministrativa Autonoma, che può essere utilizzata, ed è molto, secondo me, utile per gli istituti culturali, tant'è vero che in Ticino li stiamo trasformando tutti in questa direzione, sia l'archivio sia le biblioteche, proprio per fare in modo che una serie di soldi non spesi un anno possano essere riportati un altro anno per fare delle cose più importanti che con un budget solo annuale non è possibile fare. Quindi ragionare su un orizzonte pluriennale. Questi elementi sono importanti e si avvicinano a quello che è il ragionamento, diciamo così, dell'impresa, cioè del non solo amministrare quello che hai, ma farlo rendere rispetto a un ragionamento pluriennale e poi magari combinato con quello che viene da fuori. L'ibrido, io direi che oggi da noi non è una scelta, è quasi sempre il frutto di una storia. Il caso del Masi è emblematico. Il cantone aveva un suo museo a Lugano, la città aveva un suo museo a Lugano, abbiamo dovuto trovare la formula per metterci assieme. Impossibile immaginare che il cantone riprendesse il museo di Lugano, Lugano avrebbe detto di no, chiaramente. Impossibile immaginare che la città riprendesse il museo del cantone, il cantone avrebbe detto di no. E quindi abbiamo dovuto trovarci a metà strada, sul ponte, e ci siamo trovati facendo capo all'istituto giuridico della fondazione. Una fondazione di diritto privato, ma sostanzialmente un ente pubblico, perché è sostenuto massicciamente dagli enti pubblici. Con in più questa certa autonomia e libertà di movimento che permette di fare di rispondere alle due missioni che ricordava Campioni del museo, quindi la parte conservativa e la parte di valorizzazione. Però non è una scelta di base, è una scelta quasi sempre venuta dalla storia. Anche il museo pubblico Pinacoteca Zürst è una scelta venuta dalla storia. Il signor Giovanni Zürst ha deciso di donare la sua collezione al cantone, il cantone se ne è fatto carico e ha fatto un museo. Il museo Vela di Ligornetto, siccome il signor Vela non si fidava del cantone, l'ha dato alla Confederazione, ed è per quello che la Confederazione ha il museo Vela Ligornetto, per una scelta del donatore. Ci sono delle donazioni anche in passato che sono state proposte che non sono state accettate, perché alla fine non tutte le donazioni poi sono possibili, magari perché è più il costo che l'impresa, è più il costo, l'investimento della qualità di quello che viene che viene donato. Quindi non credo che ci sia un ragionamento a monte, si cerca di trovare la soluzione migliore per gestire nel migliore dei modi, soprattutto orientati verso l'utenza, verso chi deve venire poi al museo e verso la qualità, quello che si fa. Aggiungo l'ultimo tema, cosa fa il cantone sui privati? Noi abbiamo un importante cespite d'entrata che è il fondo Swiss Laws, che è alimentato dal gioco in denaro, il lotto per intenderci. Il 25% di questo fondo, che in Ticino vuol dire 20-21 milioni all'anno, va allo sport e i tre quarti vanno sostanzialmente alla cultura, più una parte a istituzioni un po' miste, sociali, eccetera. Ecco, dentro la parte culturale c'è anche il sostegno a tutta una serie di privati e quindi anche a dei musei privati, naturalmente con delle contropartite. Se noi diamo dei soldi, il museo non diventa pubblico, è un aiuto, però noi lo facciamo A, in presenza di qualità, se non c'è qualità l'aiuto non viene dato, B, in presenza di una serie di criteri, per esempio quante ore è aperto il museo o non è aperto, quanto è l'accessibilità al museo e questo genere di cose, perché altrimenti non si spiegherebbe per quale ragione denaro pubblico viene erogato a dei privati se non c'è un ritorno per la collettività. L'ultimo accenno è a una rete di musei particolari che sono dei privati in sostanza, perché nascono sotto forma di associazioni locali, che sono i musei etnografici che il Cantone Ticino sostiene con un'erogazione diretta, in questo caso non dal fondo Swiss Laws ma dal fondo diretto del Cantone, per 800 e rotti mila franchi ogni anno. Sosteniamo oggi 11 musei etnografici, quasi tutti situati in zone discoste del cantone, andiamo da Giornico a Lottigna, a Locco, a Cabbio, a Curio, in Tragna ce ne sono. E questi sono musei che raccontano la storia delle nostre radici, quindi la storia contadina, la storia delle valli, la storia della difficoltà di vivere nel Canton Ticino di tanto tempo fa. Ecco, sono dei privati formalmente, ma che diventano pubblico nella misura in cui sostenuti in maniera importante dall'ente pubblico nel quadro di una rete generale e quindi anche di un concetto di qualità e di messa in rete che noi imponiamo se si vuole entrare in questa rete. Quindi questo connubio fatto caso per caso, ragionamento per ragionamento, museo per museo o tipo di museo per tipo di museo, credo che debba rimanere aperto senza fare delle scelte di parte ideologiche o di altra natura che irrigidirebbero il sistema. Se vogliamo essere orientati all'utenza, alla collettività, a chi fruisce, dobbiamo tenere la testa libera da queste cose e ogni volta ragionare su qual è l'organizzazione migliore. Ecco, grazie mille Emanuele. Parola adesso a Paolo Campione. Anche qui meglio proprio scarnificare la risposta. Il vantaggio di un'organizzazione mista è oggi quello di, da una parte, essere sicuri per tutti quanti che la memoria sia conservata come si deve, cioè a vantaggio di chi quella memoria ha deciso di conservarla in un museo. Personalmente credo che la funzione pubblica dei musei sia fondamentale. Anche quando i musei sono privati e sono importanti, penso al caso degli Stati Uniti, dove sono quasi tutti privati, ma in realtà conservano una memoria pubblica con la specificità di un sistema di gestione molto orientato verso il privato. Dunque l'organizzazione mista consente un controllo politico, il controllo politico è a tutto vantaggio di quella comunità che ha deciso di conferire la sua memoria in un museo. I musei non conservano oggetti, opere d'arte, conservano la nostra memoria, il nostro passato, i valori della nostra civiltà e delle altre civiltà che sono raccontate nei nostri musei. Dall'altra parte il mondo corre velocemente, molto velocemente. Le istituzioni non sono più in grado, come in passato, nei millenni, di seguire il movimento della trasformazione del quotidiano che assistiamo così inermi, che passa davanti ai nostri occhi, che modifica i paradigmi dell'economia. Non sono più in grado, è un dato palese, non si riesce. Se voi pensate soltanto ai regolamenti comunali, è simpatico, penso che lo possa dire, ma se devo comprare un libro per il Museo delle Culture su una bancarella di Stoccolma o di Milano ed è sabato e torno a casa in treno, io dovrei scendere dal treno, andare alla dogana commerciale, aspettare fino a lunedì mattina mettendomi in una brandina, sdoganare quel libro, perché negli altri paesi non c'è l'IVA sui libri e quindi io devo sdoganarlo e pagare la differenza. È ridicolo, perché sono delle cifre minuscole, mezzo franco, 20 centesimi di franco, però i regolamenti amministrativi lo prevedono. È chiaramente un paradosso, ma potrei farvene migliaia di questi esempi. È importante oggi che le istituzioni culturali abbiano un range di mobilità che consente loro, da una parte, di funzionare meglio, dall'altra, di andare incontro alle trasformazioni della vita quotidiana e, non ultimo, di restare vicino a quelle fonti di risorse oggi così importanti che vengono dal privato, dal mondo del collezionismo, dalle imprese, da tutte quelle organizzazioni che possono avere degli interessi diretti o indiretti nel sostenere la cultura. Un'ultima battuta. Le opere d'arte, gli oggetti di cultura materiale, la concrezione della memoria, finisce sempre in un museo. Passeranno 100, 1000 o 10.000 anni, ma ci sono solo due posti dove finiscono le cose: il mercato e il museo. Alla fine si possono raccogliere tante cose, ma tutti noi esseri umani siamo finiti, no? Un giorno finiamo e le cose restano. Le cose possono andare in un museo o le cose possono andare nel mercato, ma alla fine, quando passano tante volte sul mercato, alla fine finiscono comunque in un museo. Ecco che dunque una riflessione di questo tipo ci deve far capire come ci dobbiamo dotare dei mezzi migliori affinché quelle cose finiscano prima possibile, meglio possibile, nel luogo migliore possibile per conservare la memoria. Grazie. Passiamo a Roberto Badaracco, la signora Agliati si è già pronunciata sulle croci e le edilizie dei musei pubblici, campione più vicino forse perché sta per essere trasformato il suo museo in una forma mista e quindi penso abbia espresso il punto di vista dei direttori che sono in prima linea. Quindi forse facciamo concludere ancora quindi dal punto di vista di un politico questa problematica, Roberto, e poi se gli organizzatori ci permettono, ma proprio per pochi minuti purtroppo perché l'ora è scaduta, qualcuno di voi ha magari voglia di porre una domanda o due ai relatori. Sarò brevissimo, visto che avevate detto un'ora e quindi dobbiamo restarci. No, io penso, facendo un pochettino un sunto di quello che è stato detto, penso che non ci sia altra forma per i musei da adesso in avanti di quello di costituirsi di proprio questa autonomia culturale, che è il mezzo migliore attualmente, proprio la fondazione. I vantaggi sono già stati detti, gli svantaggi non ce ne sono quasi. In realtà il timore della politica è che una fondazione sia lasciata libera e il politico non abbia più questo controllo, ma non è assolutamente vero. In realtà dà un mandato di prestazione molto preciso, i compiti sono indicati in maniera profonda, articolata. C'è anche un controllo sulle finanze, c'è un controllo sulla gestione e quindi questi timori fanno un po' strano, sembra quasi che la politica abbia paura a slegarsi da una propria competenza e in realtà... Roberto, scusa, posso provocarti? Qualche difficoltà onestà nella scelta degli amministratori di queste... Quello sicuramente. Infatti adesso stiamo costituendo questa fondazione musei e culture, e ci sono le discussioni maggiori sono proprio sui membri del consiglio di fondazione. Ormai quando ci sono le persone è sempre così. Però per terminare, ecco, i vantaggi li avete visti, però io vorrei dire proprio un'ultima parola sul valore, che è importantissimo anche, oltre che culturale, l'ho detto all'inizio, ma il valore economico di queste istituzioni, perché per esempio per il MASI, ricordatevi che ci sono tantissimi dipendenti che lavorano all'interno del MASI, ci sono restauratori, professionalità, ci sono anche esterni che lavorano con i musei per gli allestimenti, quindi forniscono veramente lavoro a tutta l'economia locale, e io credo che di questo dobbiamo essere consci. E poi il discorso ancora più indiretto ma fondamentale che a Lugano facciamo del cosiddetto turismo culturale, che è fondamentale. Se abbiamo musei importanti, musei forti, che fanno delle offerte di qualità, la gente viene a visitarli, viene a visitare la città, e tutto questo serve a tutti gli attori economici, dagli alberghi, ai locali, agli esercizi pubblici, ai commerci. E io credo che dovremmo anche renderci ben conto di questo. Più abbiamo realtà importanti e forti a livello culturale, quindi si dice sempre, quando si investe nella cultura c'è un indotto che comunque viene riportato, e quindi anche nei musei, su tutto il territorio, di 5-6 volte tanto. Io credo che questo sia un dato anche fondamentale per tutti. Sapete, c'è tanta disoccupazione, ma se possiamo dare del lavoro a tutti anche in ambito culturale, ne siamo ben contenti. Ecco, grazie mille. Quindi, come detto, qualche minuto, se l'uno o l'altro di voi vuole fare, magari specificamente all'uno o l'altro dei relatori, una domanda. Sì, Cristina Zanini, municipale anche lei a Lugano. Emanuele Bertoli, il tema legato al fatto che alcuni musei non sono sotto il Dicastero Cultura. È un tema che volevo toccare prima appunto con la signora Bencivelli, che è quello della scienza, della tecnica, dell'architettura, del territorio, che è un tema ormai di un'urgenza culturale enorme, e purtroppo appunto questi musei tipo le Isole di Brissago, il Museo di Storia Naturale, che sono stati menzionati da Emanuele Bertoli, non rientrano nel Dipartimento della Cultura. Che cosa si può fare adesso per correggere questa anomalia, che di per sé, se ci si parla, come diceva Roberto Badaracco, si potrebbe comunque superare? Ma diciamo che ragionamenti sono in corso, però noi abbiamo sostanzialmente musei che sono sotto il Dipartimento del Territorio. Penso a quello delle scienze naturali, per vicinanza diciamo a tutta la dimensione dell'ambiente, e quello legato all'archeologia e l'ufficio dei beni culturali, dove però ed è una tendenza che c'è in parte anche in Svizzera o sono sotto i dipartimenti, i DEX dei cantoni, o sono sotto il Dipartimento del Territorio, perché spesso si parte dall'idea che c'è un intervento di pianificazione del territorio, di protezione nell'ambito della pianificazione del territorio sugli immobili storici, no? Quindi il castello, il bene monumentale, tal dei tali, indipendentemente di chi sia la proprietà, viene protetto, c'è un vincolo di pianificazione per cui quel bene non va toccato per tante ragioni. E partendo da lì, poi l'ufficio, anche con le cose mobili, non solo immobili, finisce sotto quel dipartimento. C'è una discussione in corso a sapere se è possibile e opportuno, io sono tra quelli che pensa che sia opportuno, dividere le due cose, cioè la parte culturale sotto, diciamo così, la responsabilità culturale, la parte di protezione pianificatoria sotto il dipartimento che si occupa della pianificazione del territorio. Naturalmente le due cose devono essere connesse, perché sarebbe sciocco che non lo fossero, però questo ragionamento è in corso. Poi ecco, il Museo delle Scienze Naturali, per esempio, bisogna ancora capire perché gli esperti del cantone sulle scienze naturali stanno al Dipartimento del Territorio, perché non solo si occupano di questo in termini museali, ma anche per quanto riguarda proprio come dire, l'intervento scientifico sul territorio che ha bisogno di persone che hanno un know-how particolare. Le isole di Brissago sono un pasticcio. Sono un pasticcio perché in realtà le isole come tali sono un condominio, una comproprietà tra Cantone e tre comuni, e il parco esiste per decreto cantonale. Noi come Dex paghiamo i giardinieri, ma nella comproprietà è il Dipartimento del Territorio che fa la voce del cantone, per cui abbiamo già un problema in cantone con due dipartimenti che sono attivi su questa cosa. Dobbiamo semplificare questa gestione, almeno andare verso un ente gestore unico in cui si possa fare un ragionamento unico, come lo si fa all'interno, che ne so, della fondazione del MASI, dove io e Badaracco siamo dentro come membri per la mia funzione e la sua funzione. Poi ci sono altre persone che sono esperti d'arte, eccetera, in modo che alla fine si faccia però un ragionamento unico. Quindi è un ragionamento da fare, e anche qui paghiamo un po' la storia. Il lago d'Orta non ha prodotto tutto quello che doveva produrre, ecco. Magari faremo un laghettino d'Orta correttore. Grazie Emanuele, ancora spazio per una domanda. Vedo che Raul Ghisletto, organizzatore del mini festival, mi guarda male perché c'è un certo ritardo. C'è ancora un intervento possibile, se qualcuno... Sì, Lorenzo Sganzini, che ha le mani in pasta, come sapete, è direttore della divisione cultura del Dicastero, diretto da Roberto Badaracco. Grazie. La mia è una domanda, ma una riflessione. In termini di politica culturale, sentiti i vari modelli, quale è la direzione che deve prendere una politica culturale, una politica museale? La mia esperienza mi fa dire che il modello che bisogna perseguire è quello di un museo pubblico a gestione mista. Nel caso della fondazione, bisogna capire cos'è, insomma, con una delega di gestione rispetto alle amministrazioni, capace di essere un forte attrattore verso il privato. Dimentichiamo che le grandi istituzioni museali svizzere si sono costruite proprio in questo rapporto tra pubblico e privato attorno all'istituzione, e non in una crescita, diciamo, disordinata di istituzioni. La capacità del museo di essere attrattore di patrimonio, di collezioni, e la capacità del museo pubblico di essere anche attrattore di risorse private. Ok, grazie. Grazie a voi di aver partecipato, ovviamente ai relatori, per qualche momento sono ancora in giro, quindi chi vuole avvicinarli per chiedere altre cose lo può fare, grazie. Grazie mille.